Oh mamma mamma, sto a fare il soldato, già sono schedato, san tutto di me. Il comandante ha la cartella, scritta al paese dal maresciallo. Ci stanno le date, le dimostrazioni, ci stanno gli scioperi contro i padroni. Sanno il giornale che io leggevo ed i compagni che frequentavo. Ed alla fine di quella lista poi ci sta scritto sindacalista. Il comandante del mio reggimento mi ha fatto un lungo ammonimento. Sei qui, mi ha detto, per fare il soldato, devi difender la patria e la NATO. Di ogni idea devi essere spogliato, politica niente se no processato. E quando vado in libera uscita, il comandante mi fa sorvegliare. Con i compagni non posso parlare, ma solamente con il cappellano, che poi peraltro è un democristiano e la mia idea vorrebbe cambiare. Oh mamma mamma, sto a fare il soldato, già sono schedato, san tutto di me. Al mio compagno che ha contestato, l'han tenuto legato al palo 3D. Oh mamma mamma, se qui non si tace, anche se siamo in tempo di pace. E come in guerra fare il soldato, ti fanno il processo e vai carcerato. Mio povero padre morì partigiano per far l'Italia repubblicana. Io per l'Italia faccio il soldato, non voglio difendere i padroni e la NATO. Io per l'Italia faccio il soldato, non voglio difendere i padroni e la NATO.